Benvenuti, stavolta non c'è Giarca a farci compagnia, ma ci siete voi, caro pubblico. Benvenuti alla 49esima puntata, stavolta ufficiale, non DLC, del Focolare Elettrico, il nostro podcast su videogiochi e game design. Io sono Marco. Io sono Jacopo. E con noi un ospite specialissimo, già stato qui presente in altre occasioni, e in cui, come dire, i nostri due universi narrativi si sono già molto incrociati. Abbiamo qui con noi... Ciao, sono Salvo. Proprio lui, l'avete riconosciuto, lo amate tutti, dal podcast Il Mio Salotto, produttore, scrittore, sì, attore, sì. Interprete, tutto quanto. Ho scritto io tutti gli script della serie, cioè del podcast, cioè del film. Ci onora personaggi della sua serie. Ci onora con la sua presenza qui quest'oggi, perché andremo a parlare appunto di argomenti che vanno, come dire, a fondere questi due nostri universi di produzione. Ma, come ogni volta, andiamo con ordine. Anche perché siamo un po' fuori allenamento, abbiamo registrato gli episodi speciali prima di Natale e ora è già il 2022, quindi buon anno a tutti. Anche se probabilmente... Vabbè, Buon Covid a tutti. Anche perché, come dire, Salla era particolarmente positivo. Libero e in questi giorni particolarmente... Non doveva uscire troppo di casa, mettiamola così. Per cui ci fa compagnia in questo server per una registrazione. Come dicevo, però, andiamo con ordine. E, Jacopo, da dove vogliamo partire a questo punto? Non lo so. Facciamo prima cosa abbiamo giocato quest'ultimo mese, perché ormai è un mese. Ormai, sì. Ci siamo anche forse sfondati, perché tra... Natali e compleanni di qualcuno, nuovi giochi da provare sono stati parecchi. Vabbè, prima andate voi, dai. Cosa avete giocato dal 16 dicembre oggi? o anche prima, nel caso di Salvo. Ma io non ho giocato un granché in realtà ultimamente, soprattutto perché non ho un granché con cui giocare ultimamente, ma mi trovo in una casa con Switch. Oh! Quindi ho avuto il piacere di giocare a Mario Plus Rabbids per pochissimo, oh, Mario Dio. Party, e poi mi hanno costretto a giocare il primo capitolo di Overcooked, in cui ho tiltato malissimo. Ecco perché, no, come dire, c'è parecchio astio in casa. Anche per quello. Madonna. Sì, Overcooked rompe le reazioni, insieme a Mario Party. Ma... Ho sentito che questo Mario Plus Rabbids è fatto un team incredibile, Salva. Ma sì. In uno ti dico solo che qua si lamentano perché non trovano la strada, quindi forse una minimappa. Una? È tipo tutto dritto. Però vabbè. Ci sta. No, è un gioco molto carino. È liberamente ispirato a Worms, ma questo non lo rende più brutto. Ispirato a Worms. Wow. Questo no, questo non l'avevo mai sentito. Questa molto bella, questa, non XCOM, non altre cose. È serio in realtà. Ok. Dal mio punto di vista, Worms gli dà la parte humor. Autocritica, esatto. Sì. Di humor, ci può stare. Ah, cazzo, c'è, non ce l'ho mai pensato. È molto questa cosa qua, ed è molto carino infatti. Anche mentre lo giochi è molto carino come animazioni, come cose che succedono. Ah, quindi tu parlavi più da uno stile allora anche magari di rappresentazione di narrativa piuttosto che di gameplay vero e proprio, perché? Narrativa non saprei, nel senso che non ho giocato single player, però come appunto, cioè è molto autocritico, e ci sta, è molto simpatico. Con narrativa intendevo più appunto quell'aspetto umoristico di un po' di black humor. Interessante. Beh, da parte mia, io invece in questi giorni che ho fatto, ho provato un po' tutti quei titoli che ho comprato approfittando dei vari sconti di Steam, tanto che forse adesso ho anche deciso di fare una pausa perché mi sono un attimo spompato dal giocare tutto quello che ho preso un po'. No, però ho provato di questi finiti nessuno, ovviamente. Sono tutti mezzi iniziati e mezzi lasciati lì. Cose tipo Sekiro. Perfetto, già mi sta già venendo Doom Eternal, ecco la parola che cercavo. Oh! Cave Story, cose del genere. Outward, che avevo già accennato, ma di cui ho preso anche i DLC perché mi ero un attimo dimenticato che esistessero. E poi sempre Binding of Isaac, che va sempre a fare il prezzemolo sopra il resto dei miei videogiochi. Se fosse un polpettone, Binding of Isaac sarebbe la carne e tutto il resto sono i pezzi di roba dentro. No, Isaac è il pangrattato, no? Quello che tiene insieme tutto, che fa tipo Ah, da ok. cemento, no? È più o meno quello. Bello Non so se la metafora pesantino, del polpettone funzioni particolarmente bene in questo siamo a caso, Natale. però ci può stare, in effetti, sì. Io invece, vabbè, ho fatto una torta dove diciamo che non c'entra, non faccio questa metafora, basta. No, ho giocato principalmente a Halo Infinite, multiplayer. Poi ho giocato a Disco Elysium, sono andato abbastanza avanti anche se non l'ho ancora finito. Bellissimo, bellissimo gioco. E, ho iniziato e finito Guardiani della Galassia. È molto meglio di quanto pensassimo. Ho visto i trailer, insomma, Vero. confermo che è un bel gioco, una bella trama. Come gameplay non è un granché, ma bello. E poi Meritava il premio dei Game Awards. non sopra Psychonauts. Psychonauts 2 per me rimane il titolo superiore, diciamo, come trama. Perfetto, anche questa ce la siamo tolta. E poi ho provato anche io un miliardo di miliardi di giochi. Ho provato tipo The Forgotten City, Inscription, Okami, però diciamo quelli che probabilmente continuerò e finirò per primi saranno Into the Breach, che penso già dopo aver giocato tipo tre partite so che diventerà una droga, cioè so che ci morirò. Death's Door, che è tipo, beh, Dark Souls con i corvi, Mi e fa molto piacere. Ghost of a Tale, che è la rata, quindi la rata va rispettata, come dice il proverbio. E quindi niente. Sono molto curioso anche io di provare Forgotten City. Mi incuriosisce parecchio come Sì, gioco. sembra un altro di quei titoli molto pesi, però vabbè, vedremo. E detto questo, andiamo, non so se avete altro da dire su Riguardo i questo. giochi, no, ma se vogliamo fare anche la nostra piccola rubrica Download Updates, io Sì, perché ho qualcosa da speravo. Ok, dire. perfetto. Allora, prima di lasciare a Jacopo il microfono completamente, non so, ci tenevo a fare, visto che appunto è passato parecchio tempo dall'ultimo episodio, e soprattutto gli ultimi episodi li abbiamo fatti molto incentrati sull'argomento. Passando un po' sopra queste rubriche iniziali, c'erano un paio di notizie che ormai sono vecchie, assolutamente, ma che ci tenevo a citarle anche qui perché penso che siano comunque abbastanza importanti. La prima era un rispettoso saluto a Masayuki Uemura, spero di averlo detto più o meno bene, che è stato l'ingegnere, uno dei padri del NES e del Super NES, che è passato a miglior vita poco tempo fa. E che non era mai stato detto nel podcast, però ci tenevo giusto anche qui a fargli almeno un piccolo rispetto, mettiamo così. Saluto. Un saluto, esattamente. Quanto non penso mi conoscesse personalmente, ma non penso ascoltasse il podcast prima che ci Sicuramente non ora, salutasse. però è un saluto di tipo diverso. Però voglio dire, è comunque uno dei padri fondatori di tutta quella parte della Nintendo che. Tutto ciò che è diventato Nintendo, quindi un minimo di rispetto bisogna portarlo. Hades ha vinto uno Hugo Award. Ma questo Così? l'avevo detto forse? L'avevamo detto? Non mi ricordo, devo ammettere che non mi Forse ricordo, un no, vuoto. forse no, però sì, bravo che l'hai ricordato. Hades ha vinto uno degli Hugo Award per la scrittura e è una notizia abbastanza sensazionale perché è la prima volta che un gioco vince gli Hugo Awards. Poi, lo sappiamo tutti che questi vari premi sono sempre abbastanza meaningless, però No, però, cioè, è bello perché viene riconosciuto come un'opera letteraria. Pur non essendo un gioco considerato come story driven, no? Cioè, viene prima detto che è un roguelike, c'è tutti quegli altri, diciamo, attributivi, e poi alla fine mi hanno detto, ah, comunque anche la storia è bella, c'è un bel dialogue system, ci sono delle relazioni interessanti fra i personaggi e si evolve in maniera interessante. Secondo me l'ha influito anche il fatto che fosse basato sulla, diciamo, mitologia greca, e quindi tutti questi, Assolutamente. capito? Si partiva da una base ben solida Esatto. come narrativa. E soprattutto anche una base apprezzata da magari persone di cultura Ah no, sì, tu no, dici non i tipici no, no, no, nerd. però dico, è stato aiutato sicuramente dall'estetica e dalla mitologia di base, però cioè, è un bel traguardo arrivare a questo riconoscimento, diciamo, perché alla fine è quello che è. E come ultima cosa, per, come dire, portare sempre un po' di tristezza o comunque di depressione in questo podcast che ci sta sempre, parliamo del mio argomento preferito, la A Cina. Blizzard? No, Pokémon. guarda, la Cina che, giusto per, non so, continuare a parlarne, non lasciare morire tutto lì per far capire quanto sia, come dire, non sia una situazione troppo bella. Giusto per dire, la Cina ha bannato, si può dire bannato anche in italiano ormai adesso, Partito? ha bandito, Bloccato? Censurato? esiliato Ah, Steam, innanzitutto, giusto per dirne una, quindi oscurato. oscurato, Oscurato. oscurato ci può stare, visto che si tratta di quella, ha oscurato Steam nella loro intranet e giusto per, come dire. Sempre per continuare quella loro battaglia che è iniziata l'anno scorso verso i videogiochi, che a quanto pare sono la droga dell'anima per il nostro amato presidente Winnie the Pooh, hanno praticamente fermato lo sviluppo di quasi tutte le case di videogiochi interne alla Cina. Il che vuol dire che, perché loro hanno tipo, da quanto ho capito, non sono espertissimo, ma c'è una specie di parte del governo che approva un po' più o meno tutti i vari media che vengono prodotti all'interno della Cina, cioè dice se può andare bene che siano prodotti oppure se devono essere ammazzati sul nascere, e hanno bloccato praticamente tutta la produzione di videogiochi interna, facendo una chiudere una cosa come, credo, 14.000, se ho letto bene, case di sviluppo software di videogame. Giusto perché appunto non si può, insomma, come dire, continuiamo con la strada che stavamo percorrendo. Tutto qui, volevo far presente anche queste cose, no, per portare quello sprazzo di allegria, prima di Al solito passare. Marco mi deludi perché parli della Cina, parli di queste cose di sviluppatori, ma ignori le vere notizie, quelle più importanti degli ultimi mesi. È Per questo ci sei tu, Jacopo. A te il microfono, prego. stato annunciato il remake di Splinter Cell. Io quando ho visto il filmato, cioè, ho perso la testa. E basta, questa è la notizia più importante degli ultimi mesi che hai mancato. Ok. Volevo solo dire Perfetto. questo. Ah, era questo, non c'era un Era solo discorso di. questo, e adesso vado a casa a prima dare uno schiaffo e poi abbracciare Luca Ward a casa sua. Sai, tipo nei film delle commedie romantiche Come sei del entrato in casa genere. mia? Sicurezza, Come. No, lo schiaffo perché ci hai messo troppo tempo, l'abbraccio è perché finalmente tornerà Sam Fisher. E lo so che non c'entra un cazzo, però voglio fare lo stesso. E niente, fine download updates, scusate. E niente. sicurezza. E quindi, detto questo, Salla, c'è qualcosa che tu vuoi dire riguardo al mondo dei videogiochi, qualche notizia nuova? Ma io non so niente, raga. Come dicevo nell'ultima volta in cui sono stato ospite, io non sono un videogiocatore. Perfetto. Ma d'altronde non è per le tue doti videoludiche che sei qui quest'oggi, giusto? Sì, ma è per altre doti che non possiedo, ma va bene lo stesso, grazie per l'invito. Beh, purtroppo non potevamo chiamare, Il che budget so, è ridotto, quindi. quelli non potevamo chiamare nessuno di film TV, ci siamo accontentati Esatto, di quel che. multiplayer.it. Esattamente. Scherzi a parte e insulti ovviamente scherzosi a parte. Arriviamo all'argomento di oggi, che come potrete leggere dal titolo, che sarà, e qua sto ridendo per motivi interni nostri, che sarà appunto Gallery, giusto? No, No, mi sono già perso. No, scusa, l'avrete letto. era il titolo che potrete leggere, che sarà Skip Cutscene, Esatto. ovvero quella classica, come dire, quel classico prompt che appare quando uno non ha voglia di guardare appunto le cutscene durante un videogioco, in cui non gli interessa particolarmente la parte filmata o più registica di tutta la storia, ma vuole concentrarsi sul gameplay. Ed è un po' qui che ci vogliamo concentrare quest'oggi, ovvero tutta quella parte del mondo videoludico più incentrata su regia e storie, racconti e tutto quello che non ha a che fare con il videogioco in sé, in questo caso. È un po' un titolo un po' contorto, forse, ma tutto questo per dire che vorremmo parlare quest'oggi di tutto ciò che c'è attorno al mondo dei videogiochi e come i videogiochi vanno, volenti o nolenti, a finire in altri media. Tipicamente, questo, e proprio per questo ci darà una mano il nostro ospite di oggi, tipicamente appunto film, serie TV, ma anche libri, fumetti, eccetera, eccetera. E quindi, da dove vogliamo partire questa nostra piccola chiacchierata? Non lo so. Allora, diciamo che l'argomento principale riguarderà i videogiochi tratti da film, mettiamola così. Ci Sicuramente. sono alcune sorprese, alcune cose che volevo portare per forza, cioè bellissime, che volevo un attimo rivangare del mio passato, cose che sono anche per Salla. Okay. E magari però parliamo anche di Super Mario Bros. Magari velocemente, se Salla vuole. Se vogliamo ridere, insomma. Vogliamo ridere. Io perché l'ho visto stamattina, quindi non so se Io l'ho sì, visto anche io ieri l'ho sera. visto oggi a pranzo, diciamo. Ci sta, no, come pietra miliare di tutto quanto, perché alla fine non penso sia stato il... Oddio, non lo so, potrebbe essere stato il primo film tratto da un videogioco, non credo. No, non No, credo. sicuramente no, però di un franchise così grande probabilmente sì, visto che comunque parliamo di Super Mario. Esattamente, bravi. Cioè, è proprio, penso che sia il simbolo perfetto, un po' la rappresentazione di quello che forse ci viene anche da pensare quando diciamo un film tratto da un videogioco, inteso che era già nel 93, perché ci stiamo ovviamente riferendo alla pellicola intitolata Super Mario Bros. Del 93. Super Mario era già un franchise che era esploso, che era stato il capostipite del mondo. Ma lo sai che forse è davvero il primo film occidentale? Guarda, è quello il punto. Comunque sì, E scusa, quindi vai. che fai quando un franchise così grande, così amato, così, come dire, sì, così tanto seguito, non proviamo a farci altri soldi sopra, non proviamo a farci un film? E quindi che facciamo? Diamo il film a una di quelle case americane da... Oddio, questa qua... Oddio, non mi neanche... Non era DreamWorks? No, dover controllare, ma il punto è quello. Diamo i diritti per un film a qualche casa americana. Ed esce fuori tutto quello che hai sempre desiderato, ma che non hai mai saputo desiderare, e allo stesso tempo fai fatica a guardarlo, questo film. Sì, comunque è un Mio Dio. film da un punto di vista di... Cioè, purtroppo è un film molto curato anche, nel senso che loro ci hanno speso... No, Sì. nel senso che loro ci hanno speso veramente tanti soldi e È vero. tante risorse per fare un film del genere. E ok che è del 93, ma non c'è molto di salvabile. Quando l'ho visto, io ho pensato questo, cioè, avete presente quando vi dicono è un film molto anni 90? Questo penso sia il film più anni 90 che io abbia mai visto in vita mia, ma sai proprio l'idea di film per ragazzi anni 90? C'era tutto, c'erano strette di mani idiote, cioè tipo C'erano gadget assurdi che solo per non so, che cercavano di Vedere far giocattoli. ridere, ma neanche quello perché non erano giocattoli, è quella cosa tipo gadget assurdi che dicono che durante la produzione uno poteva dire: ah, perfetto, di questo poi faremo il giocattolo e sarà un successo, ma non l'avevano neanche ancora fatto. Ci sono gag fisiche, no? Dei personaggi che cadono e si fanno male, cose del genere. C'è la bella ragazza di turno, ovviamente. È il film più anni 90 che io penso di aver mai visto. Batte anche cose come Ritorno al futuro, cose del genere. Ovviamente qualità a No, parte, si vabbè, intende, però inteso anni. Beh, proprio come film anni 90. Anche Ritorno al futuro è più anni 80, però sì, cioè, quello, tra l'altro. copia molte cose da roba tipo Blade Runner, Ritorno al futuro, cioè queste robe qui. Volevo ringraziare Salla perché direttamente o indirettamente mi ha fatto vedere due film con John Leguizamo dentro. Questo è incanto. È sempre un piacere vedere roba con dentro Beh, John uno è Leguizamo. un bel film, però. Ed è Qual Super è il Mario. due? Comunque no, questo film a me è divertito tantissimo involontariamente. Cioè, nel senso, c'era una scena dove c'era una battuta, una cosa divertente. Mario, Io Luigi, e Mario Mare, esatto, così. Però a volte quella tipo, io non ridevo rimasta alla la storia. battuta, ma ridevo al fatto che quella era una battuta. Cioè, ridevo del Sì, fatto che loro. bravissimo, era Cioè. estremamente meta in questo. Oppure ridevo di cose tipo lui che è un idraulico, uno sconosciuto a New York, che tipo chiede a una ragazza che ha appena incontrato se vuole uscire a cena e dice di sì. Oppure chiede se vuole un passaggio e lei dice di sì. Tutte Sì. queste cose, capito? Vabbè, ma lei È viene per da quello che è un'altra un film di dimensione. fantascienza, eh? Lei viene da un'altra dimensione, ci sta. Lo so, è vero, ci Cioè, sì, sta, è che si vero. fida. Poi soprattutto in quel momento che vanno in giro persone che rapiscono donne. Giusto per spezzare una lancia a favore degli sceneggiatori, vabbè, erano comunque gli anni 90. È vero che secondo me Mario è molto complicato da rendere in un film live action, nel senso che la sua trama, la sua lore, non è una lore che tu puoi dire ok, ci faccio un film su New York, cioè devi proprio fare un altro tipo di film. Questi qua si sono inventati tutto da zero, di fatto. Ma infatti devo Sì. dire che riguardo questo, tanto di cappello, perché effettivamente riuscire a tirar fuori tutta quella roba da Super È Mario, vero, sì. su Ma questo secondo me assolutamente avevano tanto già. di cappello. Io ho il sospetto che avessero già una sceneggiatura sui dinosauri, eccetera, e l'abbiano ricacciata per farci questo film. Tipo, una sceneggiatura perché i 10 anni avevano già la colonna sonora tratta da boh, roba scartata da John Williams. Avevano già. Cioè, avevano già qualcosa, secondo me. Non è possibile perché è veramente, veramente lontano da qualsiasi cosa riguardi Super Mario. Cioè. A parte il Bobomb alla fine, che è la bombetta piccolina, proprio come design non c'è nulla di Super Mario. Il che cioè, è un pregio, un difetto, diciamo, di questo film. Non lo so. Ho due cose da dire al volo. Se non so quando esce questa puntata, però al momento questo film è su Prime, quindi è tra virgolette, non dico gratis, ma comunque si ritrova a bassissimo prezzo. Ha solo un difetto che Prime mette solo l'edizione italiana, che in questo Grazie. caso è doppiata abbastanza bene, ma non è corretto il frame, cioè è in ritardo, sono in ritardo Ho i scoperto che doppiatori. basta mettere in pausa e ripartire per farlo Ah, rifunzionare. ok. Mi sa che è E un in più nella bug. versione italiana mancavano delle scene, tipo il re non si vede, infatti è nel cast e mi sono chiesto perché è nel cast, perché c'è nella versione inglese, giapponese, Ah, ma non c'entra dici italiana. il re fungo Il praticamente re non si vede. fungo in realtà c'è l'attore nel cast, anche se sarebbe Okay. inutile, non si vede mai, ma perché c'è nella C'è una versione scena, sì. originale. Io Ah, l'ho ok. E in visto in più. inglese, avevo la videocassetta a E casa. in più E avevano preparato un sequel, cioè avevano messo le basi per un sì, le possibile basi per un sequel, sequel. cosa che nella versione italiana non c'è Ma lo invece. dicono, no, ma lo dicono. Cioè, c'è una scena in cui lo citano, il fatto, ah, se ci fosse, se ci sarà un seguito. Lo dicono proprio, fanno un meta joke Io a vorrei riguardo. solo citare un paio di cose che mi sono addirittura segnato perché per me sono state. C'è una linea che. C'è una scena in cui si fa Heil Koopa a Bowser Ah sì, è praticamente, vero. E quella lì sono morto perché a quanto pare Bowser è nazista in questo film. Giusto per. È vero! Ci so, c'è stato. C'è una singola inquadratura nel film in cui il World Trade Center diventa l'Ekupa Tower per un attimo, il che ci fa. Quindi possiamo dire che Super Mario ha predetto il futuro, in un certo senso. E. Io anche qua ci sono rimasto allibito nello scoprire, ma non sono i film Marvel che hanno inventato la scena post-credit. Ma Perché c'è questo. una scena post-credit nel film di Mario e io lì ci sono morto. Mi sono alzato, standing ovation d'applausi, 15 minuti d'applausi da solo io in camera mia, una Sai che cosa. non l'ho vista? Ho spento subito. Ci sono praticamente. Ma non so se c'è una versione italiana, è quello il fatto. No, Può dici? essere, Secondo può anche essere me quello, non c'è. però ci sono i due cugini Koopa, non so neanche come vengono chiamati in italiano, quei due, sai, Spike e quell'altro, non mi ricordo che erano quelli, gli idioti del film che poi a quanto pare diventano di sinistra dopo, più tardi Perché diventano intelligenti e quindi e giustamente si quindi convertono al diventano. Quindi comunismo. anche lì, cioè, vedi, critica sociale sotto questo punto di vista, cioè, complimenti. Bello. Che vengono contattati da due businessmen giapponesi per fare un videogioco. Loro propongono i Super Koopa Brothers, no, Super Koopa Cousins, perché sono cugini. Erano i due Miyamoto. No, non credo che siano arrivati a quel punto, anche perché forse Beh, ci sta, dovrebbe dovuto fare tipo Harakiri Stanley. Miyamoto per In farne realtà questo. Nintendo aveva un'opinione abbastanza, da quello che leggevo, abbastanza permissiva riguardo a questo film. Hanno detto, sti cazzi, ci siamo divertiti, buona. Tanto noi vendiamo uguale, che ce ne frega. No, infatti, di sicuro per loro Cioè non penso hanno che sia detto, è la allora. merda, non guardatelo, eccetera, Non penso eccetera. sia canon come film, mettiamola così. No, no, no. Marco, però ti sei perso il doppiaggio di Pannofino e il doppiaggio del oddio, come si chiama? Il doppiatore di Will Smith nel Principe di Bel-Air, che è Luigi. Cazzo, non ci credo, Sandro eh. Acerbo. È certo che Mario doveva essere Pannofino, chi altro? No, no, Mario non è Pannofino, uno Chi dei è due. Pannofino? È uno dei No, due Pannofino scagnozzi. è No. uno dei due Koopa Cousins. Incredibile. Comunque, vabbè, fantastico questo film, veramente. Bellissimo e Assolutamente. terrificante. Guardatelo, poi ne riparleremo quando magari nel salotto si andrà a parlare del nuovo film di Super Mario. E lì sono ancora più curioso di vedere Ora che con fine avrà fatto, che fine avranno fatto i cugini Koopa. il 100% in più di Chris Pratt. Sì, Prossimo cioè, film di Super Mario. adesso in realtà siamo molto avvantaggiati perché puoi fare molta più CG, molta più cartonata. Cartonesco. Vabbè, Sì, immagino. vedi Sarà un il cartone. film, Ma infatti vabbè. anche lì io immagino che sia un film 3D, digitale, Sì, alla sì, sì. stile Ma Pixar. anche volendo fare a Mario Persona, puoi fare una cosa alla Space Jam che Dio nel mio, ti 93 prego, non no, potevi però. fare. No, no, però era per dire, cioè le risorse sono molto diverse. Mario mi sembra un progetto un tantino impegnativo da fare nel 93, soprattutto con una sceneggiatura di questo tipo. Basti pensare al fatto che i dinosauri sono esseri umani. Tra l'altro, quello è molto Esatto. interessante come scelta. Per risparmiare e usare tutto il budget sui Goomba che sono bellissimi. Mamma mia, i Goomba. Cioè, hanno la cazzo di fisarmonica, la noti, no? La Cosa si filarmonica, come sono si fumati? Era chiama? veramente roba Armonica. Come si buona. chiama? L'armonica si L'armonica. chiama? Sì, l'armonica. Cioè, quella roba piccolina che hanno davanti. Cioè, hanno una cazzo di armonica davanti, ma che serve? Ma perché? Si mettono a ballare la musichetta quella lì Oh mio, sonnolente. vabbè. E Vabbè. questo per dire, come dire, un inizio un po' atipico da parte nostra, perché sembra più appunto un episodio del salotto. E se Salla poi vorrà estrarre giusti questi 15 minuti dall'inizio Sì, del così podcast sono finito, li per spostarli. uso per un altro Esatto. episodio. Ricicla. Esattamente. Però io penso che sia appunto, come dicevo, la rappresentazione perfetta di quello che ci siamo. Di quello con cui ci hanno abituato nel corso degli anni, ovvero un grande franchise che faceva già di per sé un botto di soldi come videogioco, che veniva poi attirava appunto l'interesse di Hollywood per poi essere riadattato in una cosa che più delle volte fai fatica a guardare, un po' come questo Super Mario, una storia che non c'entra, che non c'entra nulla con il, con l'opera originale, e che molto spesso, per chi, soprattutto se lo va a vedere uno che magari è appassionato del brand originale del videogioco, risulta molto spesso anche cringe, non so, a me sembra, ho sempre avuto un po' molto quella sensazione. Questo è proprio, cioè non c'è proprio paragone. Detto questo, perché come abbastanza tutte queste caratteristiche. Ho qui infatti aperto davanti a me la pagina di Wikipedia film basati sui videogiochi, se questo non bastasse. E sto leggendo i titoli di quelli che hanno fatto più incassi in assoluto, in cui troviamo cose come Resident Evil, Angry Birds, Sonic il film, meritatissimo in questo caso. Sonic, okay. Sì, Angry Birds, okay, quello... Pikachu. Prince of Persia, Need for Speed, vabbè, Tomb Raider. Non facciamo la lista, cioè... No, era giusto per dare un po' di titoli per capire da dove ci stavamo basando, e poi gli altri sono tipicamente film dei Pokémon, perché quello insomma, che è preso in considerazione, la maggior parte sono film Il Rent, mi mancava. Ecco perché. E soprattutto, a quanto pare, questo non me lo sarei mai aspettato, non so perché, ma non... Avevo sentito che aveva fatto scalpore, ma non pensavo così tanto. Al primo posto di questa lista, proprio appena sopra Detective Pikachu, c'è Warcraft. Certo, ma chiaro. Certo. Io non capisco perché non abbiamo fatto un sequel, onestamente. Cioè, hanno fatto veramente una vagonata di soldi. Ma infatti dovrebbero. E tra l'altro, cioè, ha preso voti bassissimi della critica, eccetera, ma non era un film bruttissimo. Cioè, c'erano cose salvabili. Tra l'altro le cose salvabili erano gli orchi, erano i personaggi in CGI, cioè era fatto benissimo, e il regista non è neanche l'ultimo degli stronzi, quindi boh. Interessante, cioè, capisco... per esempio quello io non l'ho visto perché mi aspettavo già il peggio, e per quello forse sono andato prevenuto. No, allora, però... non è sto film che dici, oh, porco, invece... Sì, però, non è Avatar, diciamo, cioè... però... Non è neanche l'ultimo delle merde, cioè, non so. E tra l'altro al terzo posto c'è Rampage, quello con Dwayne The Rock. Strano. Giusto per dire. Quello che mi sorprende di più però per ora è ancora Angry Birds al quarto posto. Ma basta Angry con Birds, il radio, non vuole fare... è un cartone animato. Quindi, sì, però è tratto da un... Ah, no, beh, no, dici no, sì, però... è una roba per bambini, è come dire un cartone Pixar. Invece... gli altri sono live action, quindi vabbè, sì. Capisco. Cazzo... Ora, appunto, come diceva Jacopo, non voglio mettermi a fare un elenco, perché ne ho già fatti fin troppi, però, come dire, ci sono magari alcuni titoli, soprattutto quelli un po' più recenti, come Detective Pikachu, Warcraft, Sonic, che magari vengono salvati da tutta quella descrizione che ho appena fatto prima, mentre gli altri, secondo me, rispecchiano ancora abbastanza tutte quelle caratteristiche, presentano ancora tutte quelle caratteristiche, diciamo, all'inizio. Però non c'è neanche un film di fatto videogiochi che è davvero bello indipendentemente. Cioè, anche il più bel film mai fatto, anche il più bel film mai fatto tratto videogiochi, che è ovviamente Detective Pikachu. Non c'ha quella carica, cioè, nel senso, cioè, preso da solo non è un cazzo, cioè, nel senso, non va bene, ok, effetti speciali e tutto, però è una cagata di film, cioè, nel senso, non so come dirlo, cioè, è ancora forse molto quel concetto che appunto perché è una cosa tratta dal videogioco possiamo andare un po' alla cacciara, fare un po' i cacciaroni con la storia, così inteso. Non c'è mai stato un film, tra virgolette, serio. Forse l'unico... Oddio, Forse ci avevamo provato con qualcosa tipo in Assassin's Creed, però anche quello non l'ho visto perché non No, oso è immaginare. imbarazzante non guardarlo. Sì, infatti non oso immaginare cosa No, no, no, no. E diciamo. aver fatto. Iper noioso. Però sì, era un buon tentativo quello. Ma forse c'è anche come dire, quella specie di idea che appunto perché si tratta di un videogioco, allora non è una cosa così seria, possiamo inventarci qualcosa. O magari sono io lì che sto facendo particolarmente il cinico, magari è solo una questione del tipo, non è tanto che è un videogioco, magari che appunto è che è già un franchise, già abbastanza amato, con già sufficiente seguito, che non serve che ci impegniamo troppo, tanto i soldi li facciamo comunque. E non so se questa affermazione è quasi più cinica della precedente. Qui volevo portare una storia, la prima delle due storie che volevo portare. Prego, Papa Jacopo, Halo, raccontaci una storia. Papa Castoro. La mia storia è Halo. Ora, come il più grande fan di Halo qui presente, cioè Salla, saprà benissimo, Cazzo. Peter Jackson voleva fare un film di Halo, o meglio, doveva fare un film di Halo, Oh. come produttore, lo aveva affidato a Neil Blomkamp, che era super eccitato perché lui era un super fan, e gli avevano dato un botto di soldi, avevano fatto veicoli, armi, armature, Figata. tutto quanto alla Weta in Nuova Zelanda. Porca troia. Tra l'altro il simpatico Joseph Staten, lead di Halo Infinite e altri Halo precedenti, è andato pure lì in Nuova Zelanda a vedere sti Warthog, queste armi, eccetera. Hanno fatto delle chiacchierate, insomma, alla fine non è uscito niente. Neil Blomkamp ha fatto un altro film che è Distretto 9, per fortuna perché è bellissimo. E quello che è uscito da quell'esperienza è stata una serie come si chiamano? Di pubblicità. Tipo, sono delle pubblicità che se le metti insieme è una specie di cortometraggio su dei Marine e degli addestrati che devono tracciare qualcosa che sta cadendo sulla Terra, che in realtà poi si scopre che è Master Chief nel gioco. Però beh, ovviamente Weta Workshop, per chi non la sapesse, è quella che fa tutta la roba per i film tipo Il Signore degli Anelli, tipo le armature, le spade degli Uruk-hai. Cioè è un'azienda che fa effetti speciali. Oddio, mi sa addirittura sia quelli fisici che quelli in CGI adesso. Sì, Però penso sì, che si c'è. siano Però specializzati anche abbastanza nella CGI ormai. quello per cui lo conosciamo noi della nostra annata è più. Sono quelli che facevano tutti gli effetti speciali sui anelli, praticamente. Beh, quello per cui sono diventati famosi in Esatto. tutto il mondo è perché hanno fatto tutte le armature, tutti i props del Signore Tra degli l'altro super economici. Però vabbè, questo ne riparleremo a settembre quando uscirà quella su Amazon, che è costata tipo il PIL del Anelli. Congo. E quindi niente, cioè, sono uscite delle cose positive, ma quello che volevo dire a riguardo, per collegarci a questo discorso, è che quel film non fu mai fatto non perché non c'era una storia interessante dietro, perché tipo Blomkamp diceva sempre: ah sì, io voglio fare questa storia molto interessante, forse la parte per me più interessante, cioè una delle parti più interessanti dell'universo di Halo, cioè il fatto che quando i bambini venivano presi per diventare Spartan, gli Spartan sono quegli eroi tipo Master Chief con l'armatura e tutto, venivano rapiti dalle loro famiglie all'inizio e venivano rimpiazzati da dei cloni. C'è un cortometraggio solo Legends animato molto figo al riguardo. E Blomkamp voleva basare la sceneggiatura tutto quanto su questo, diciamo, elemento di lore dell'universo, che è un'idea, cioè, già abbastanza figa. Con il trattamento Blomkamp, tutto realistico, eccetera, poteva diventare figa. Il motivo per cui è fallito il progetto è che, come al solito, interferenza tra la Microsoft e lo Studios e l'IP. Perché quando c'è di mezzo uno studio, già le cose vanno male. Quando ce ne sono di mezzo due, le cose vanno peggio. Quindi Ovviamente. Microsoft e, non mi ricordo se era Paramount o New Line Cinema, non mi ricordo chi ci stava in mezzo ancora all'epoca, Universal. Ognuno voleva una cosa diversa, ognuno voleva tirare il più possibile il budget per potersi, diciamo, rifare su i costi di licenza, essenzialmente. Cioè, ognuno, insomma, tirava la corda, alla fine la corda si è stuccata. E questo è quello che succede di solito, cioè che tutti vogliono avere l'ultima parola, si scannano e di solito ci sono tante più persone con i soldi che non sanno fare sceneggiature, che si mettono a spippolare sulla sceneggiatura. Questo è quello che succede di solito. Quindi diciamo che secondo me, per fare un bel progetto su un videogioco, serve un regista che ci tiene, uno sceneggiatore che ci tiene e un producer con i controcoglioni che rifiuta, diciamo, l'interferenza dello studio, diciamo, di cinema e la casa che ha i diritti, la casa dei videogiochi. Non so se mi spiego, cioè, che non succederà mai. Cioè, nel senso, ci metteremo un po' a arrivarci. Beh, da quel che mi dite, in realtà io, come dicevo, sono uno di quelli che, se forse un po' ha un po' di pregiudizi in questo campo, appunto, e avendo passate esperienze riguardanti film tratti da videogiochi, li ho schivati tutti abbastanza senza pormi domande. Però, da quel che mi dite, a quanto pare ultimamente sembra un po' diversa la situazione. Avete detto che Sonic non era male. Detective Pikachu, ecco, forse è l'ultimo e unico che ho visto da tanto tempo. Anche Warcraft, a quanto pare, sembra essere migliore di quanto non pensassi. Quindi forse è più. Secondo me, semplicemente i tempi non erano troppo maturi, nel senso che fino agli ultimi anni. Perché cosa succede? Se tu vuoi fare un film tratto da un videogioco, o prendi la sua storia e lo fai, e quindi ti affidi completamente a quello che è il videogioco e la sua pubblicità, e fai un film tipo Street Fighter, che comunque è andato bene, però. Cioè, sicuramente è trainato dalla fama del videogioco. Dici Oppure qualcosa cosa con fai? Ci Mappen? scrivi una storia sopra, come quella di Halo sugli Spartan. Cioè, onestamente, perché assumersi il rischio? Perché uno non può fare un Dunkirk, che è una storia originale, su una storia reale, che ha la sicurezza di avere meno pressioni, di avere comunque più libertà, eccetera, eccetera. Perché limitarsi? Secondo me i tempi adesso sono più maturi, nel senso che adesso c'è più. Cioè si prende. Sia i videogiochi probabilmente hanno più lore interessante. Perché da Super Mario, secondo me, non è che puoi trarre fuori un quarto potere. Sia, secondo me, appunto, c'è più attenzione in quella che è. Diciamo, le storie sono più complesse. E anche a chi fa, e anche al grande pubblico piacciono storie un pochino più profonde. Vedi l'esempio di Arcane. Arcane è tratto da un videogioco, ci hanno messo su una barcata di soldi, però c'è comunque un po' di storia dietro, cioè c'è comunque una storia originale, c'è comunque del lavoro dietro, i personaggi sono più o meno profondi. Cioè, se avessi fatto un film su Halo 10 anni fa, avresti preso un soldato e l'avresti messo in uno sparatutto qualsiasi, allora fai un film tipo hardcore, eccetera. Sì, Quindi secondo me è anche un problema di tempi, no, hai di. ragione. Infatti, ora io ho speranze per il film di Metal Gear Solid. In realtà, cioè, quello che ho detto prima non ci credo davvero. È vero perché. Uscirà prima o poi e sarà decente, probabilmente. Proprio. Innanzitutto, stronzo io che effettivamente non avevo neanche, mi ero dimenticato di Arcane, che in effetti è quello l'ultimo che ho visto tratto da un videogioco e mamma mia, guardate Arcane. E soprattutto, effettivamente ora che ci penso, se uno ci riflette un attimo, prima quanti. Beh, parliamo sempre solo di film, per farla semplice. Quanti film tratti da videogiochi uscivano durante gli anni? Anche lì mi sa che si poteva contare sulle dita di una mano, e mentre adesso mi sembra che anche sia un'idea un po' più, che sta venendo sfruttata, anche perché, come dicevi, c'è, deve uscire il film di Mario, deve uscire il film di Metal Gear, e mi sembra ci siano altri titoli che debbono uscire adesso, ma di cui non mi stanno venendo, cioè. Non mi sta venendo in mente, già c'è Sonic 2, insomma, si sta sfruttando di più come idea e forse si sta anche capendo che non è una brutta idea di per sé, solo devi farla anche lì in un certo modo. Anche, per esempio, anche appunto serie come quella di Arcane, abbiamo. Si può mettere forse in questo campo un po' anche The Witcher, che comunque è più basata sui libri, sì. Però bisogna anche ammettere che se magari c'è stato uno che ha pensato, Di questa cosa qua c'è già comunque un gran seguito. Probabilmente stavo pensando più al videogioco in sé Sì, che beh, al libro, chiaramente. probabilmente. Anche Quindi, Warcraft ha una lore aspetta. enorme di libri e roba, però ovviamente la Sì, gente no, pensa al videogioco. Warcraft penso ci puoi riempire delle enciclopedie con la sua Esatto. lore, quindi. E che appunto va anche lì in tal caso è una di quelle cose che la maggior parte dei giocatori neanche ha idea di tutta la lore che c'è dietro Warcraft, probabilmente ci gioca solo per, appunto per fare i dungeon e cose del genere. Prego, Jacopo. No, questo era, cioè, sì, cioè, alla fine sono d'accordo con Salla. Detto questo, però volevo passare all'altra faccia della medaglia, cioè nel senso che comunque anche l'altra faccia non è messa benissimo, cioè è un po' messa male. C'era questa cosa un po' di anni fa, e ora è un po' andata a scemare, che ogni film che usciva quasi aveva si chiamano tie-in, cioè giochi tratti da questi film, diciamo, no? Io sto, non vorrei fare la lista, però mi ricordo distintamente quando eravamo giovani, ogni film Marvel che usciva c'era il suo gioco di merda associato, Ma magari... ancora prima, cioè ma pensa ancora a prima. Hercules, quello che dava nelle patatine, no, nei cereali. Sì, c'era. Però c'erano già, vedi la differenza, già per quei Tutti i tie-in giochi. c'erano delle gemme, nel senso che alcuni di quei giochi tie-in avevano un senso, tipo Il pianeta del tesoro. Vabbè, tu dici, quello non è un vero film, però cioè, è un cartone. Però quel gioco, giocavamo, ci eravamo chiusi io e Edoardo dentro, Edoardo non questo, l'altro. È un gioco di tipo mezza, non so come definirlo, strategia? Non so, cioè con le navi, le battaglie navali, non so come definirlo. Ed era molto figo, cioè... Per me la differenza fra i film tratti dai videogiochi e i videogiochi tie-in è che i videogiochi tie-in ce ne sono talmente tanti che qualcuno bene c'è uscito. E quindi, cioè, su questo già posso recuperarne 3-4 che ho giocato anch'io, che mi sono piaciuti, tipo King Kong di Peter Jackson, è spettacolare. Cioè, quel gioco era veramente non solamente fedele al film in un certo senso, perché era lungo, era noioso in alcuni punti come film, ed era con i dinosauri dentro, però era anche tecnicamente avanzato come film, era anche molto all'avanguardia come gioco, perché tipo non avevi elementi, cioè non avevi tipo quanta salute hai, o questo è il mirino, oppure questo è il tuo inventario, cioè era tutto quanto pulito, non c'era niente di interfaccia, no? E quindi era molto più immersivo, era molto più, non lo so, era quasi un horror come gioco, era strano, a parte le sequenze dove picchiavi T-Rex con però beh, il gioco principale alla fine era tu come diciamo, il tizio quello lì, l'ho visto il film, come cazzo si chiama, vabbè, Adrien Brody, non lo so, che vai su quest'isola e praticamente è un survival, devi sopravvivere a questi dinosauri, così molto figo. E altri film, sì, altri film, altri giochi ispirati al film non erano ispirati alla trama proprio del film, ma erano, diciamo, prendevano il film come un pretesto per fare qualcos'altro, come alcuni film di videogiochi in realtà, tipo Le cronache di Riddick, che era stupendo quel gioco, veramente stupendo. In un certo senso anche Spider-Man 2 non era proprio ispirato al film. Cioè sì, c'erano elementi del film, però non era proprio uguale al film. Bellissimo, stupendo gioco ancora oggi, bellissimo da giocare, a cui si ispira appunto lo Spider-Man nuovo. E per me personalmente anche Enter the Matrix, che è un gioco di merda, però l'ho amato alla follia. Cioè super divertente, super scemo il gioco su Matrix. Tra l'altro è uno di quei giochi che uniscono videogiochi e film, perché le Wachowski hanno girato i pezzi di filmati per il gioco mentre giravano i sequel di Matrix. Wow, Cioè, questa è. sì, c'erano, sono proprio pezzi di filmati con gli attori veri del film che hanno una loro trama secondaria che si incastra, che si incrocia con il film. Addirittura alcune scene sono anche dentro il film. Alcune scene, cioè le cose che fanno, sono riferimenti, cose. Che spettacolo quel gioco, mamma mia. E questo invece è per Sala. Ho scoperto che c'è una trilogia. Anzi, no, c'è un gioco che si chiama Die Hard Trilogy, ma è uno solo. Cioè, è un gioco, però sono tre giochi diversi, cioè non è lo stesso gioco con tre storie diverse, capito? Cioè, è Lo un sto gioco solo. googlando purtroppo. Cioè, e a quanto pare è molto bello perché è tipo una specie di sparatutto, poi c'è tipo un gioco di guida. Dice che il CD-ROM può essere usato come un normale CD audio per ascoltare la colonna sonora. Che bello. E Die Hard Trilogy ha ispirato un sequel intitolato Die Hard Trilogy 2, Viva Las Vegas. Spettacolare. Quindi sono sei in È tutto. bello. Incredibile. Bello. Devono fare un altro Die Hard allora, per forza, se no non possono finire la duologia delle trilogie. È Però questo vero. volevo dire, cioè, eh? No, no, dicevo, è vero, manca un Die Hard. Col figlio lo faranno. Sì. Non so perché, cioè, forse a questo punto è vero anche il contrario, cioè è vero che prima nei giochi potevi, diciamo, dai giochi potevi aspettarti molto di meno, come ci si aspettava meno magari da un film, e Sì, probabilmente quello. quindi magari era più facile prendere un'idea e buttarsi così, cioè provare a farla. Mario, No, dimmi. scusami, volevo chiederti, ma secondo te quanto è più semplice scrivere una storia rispetto a scrivere un videogioco su una storia? Queste sono le E... domande. È difficile, dipende che gioco è. Dipende dal gioco, dipende da quanto bene la vuoi integrare, mettiamola così. Perché una storia bella, che è bella di per sé, ci puoi fare sia un film bello che un gioco bello, ma se il gioco vuoi che sfrutti bene il fatto che sia un gioco, ci vuole più lavoro. Perché mentre magari per il film, non lo sto dicendo che fare i film è facile, però per fare un film in generale servono meno soldi rispetto a prima. Cioè magari con meno budget, con meno sforzo di effetti speciali, set, tutte queste qua, puoi fare qualcosa con una bella sceneggiatura. In un gioco dipende molto dalla sceneggiatura. Una cazzata, per esempio, vuoi girare una scena di due personaggi che parlano da uno, cioè uno parla e l'altro risponde in un parcheggio? 10 euro. Cioè, prendi la telecamera, vai. In un gioco? Miliardi di euro. Cioè, Sì, no, è che una molti di cosa. questi giochi sono degli anni 90, in cui per esempio c'è questo gioco qua che sto guardando in questo momento, che è il videogioco dei Blues Brothers, che è nato nel 91, Esatto. e in cui praticamente tu devi scappare e non farti toccare dalle persone, e ovviamente ne hanno fatto in 5.000 piattaforme. Secondo me era molto più semplice creare una cosa di questo tipo partendo da, non lo so, rispetto a creare i Blues Brothers. Beh, ci sono videogiochi che principalmente tratti da film e cose così, che sono diventati leggendari anche per quanto erano. Mi hai fatto tornare in mente il classico ET per, oddio, Oddio. perché cos'era? Per Atari. l'Amiga? Per l'Atari, sì, scusa. E per l'Atari c'è il videogioco di Superman. E anche lì purtroppo non ricordo benissimo per quale console, che però è diventato 64. famoso. Nintendo Grazie 64. mille, che era diventato famoso per quanto fosse ingiocabile per via dei suoi controlli che non funzionavano praticamente. E come dire, sì, c'è tutto questo aspetto anche che lì continuerò a esserci cinico. Abbiamo capito che ho il ruolo dei due vecchietti dei Muppets che insultano la gente così, di questo podcast. Però sì, c'era molto, almeno fino a qualche anno fa, c'era secondo me l'idea appunto che, come dicevo prima, se è una cosa che ha già seguito, se sai che tanto un po' di soldi li farei di sicuro indietro, non c'era troppo bisogno di impegnarsi e si faceva giusto per farla, no? Giusto per spremere, per mungere la mucca per tutto il latte. Adesso magari la gente ci fa anche un po' più caso a queste cose, inteso. Ormai è talmente, non lo so. Forse adesso si vuol dare anche un po' di più, chi lo sa, sta cambiando un po' l'atteggiamento, può essere. Si spera, lo spero io veramente, perché mi fa Ah no, piacere quando escono. ma l'atteggiamento è giusto, secondo me. Cioè, nel senso, per me, se esce un film e tu vuoi sfruttare il fatto che esce il film per fare soldi, è giusto fino. Cioè, nel senso, è giusto se tu poi dici, ok, però il gioco deve essere un gioco, cioè deve essere un bel Esatto. gioco, deve essere solamente un pretesto per fare un bel gioco, non so come dirlo, cioè. Nel Assolutamente. caso, per me, io sto pensando ultimamente a Mad Max, che non è un capolavoro, però era un gioco completamente, diciamo, autocontenuto, non aveva bisogno di uscire insieme a Fury Road, però è uscito insieme a Fury Road. Cioè, Fury Road è stato un po' il pretesto per dire, finanziamo un progetto, per fortuna anche il film ci ha messo 5 anni a uscire come il gioco, però finanziamo un progetto che uscirà insieme a Fury Road. Che parla di Mad Max, basta, non deve essere per forza completamente collegato, non deve essere. Poi alla fine hanno fatto un gioco che da solo si regge perfettamente in piedi, è un po' ripetitivo, eccetera, ma ha tutti gli elementi giusti che ti aspetti da Mad Max. Comunque è avvantaggiato anche dal fatto che Mad Max di per sé non abbia questa storia complicatissima. Quindi forse anche questo, dicevi tu, Salla, prima, cioè, se decidi di fare una storia semplice, è più semplice poi farci il gioco. Quindi se dici, oh, facciamo una storia semplice dove Bruce Brothers scappano dalla polizia e basta. Esatto, cioè anche lì probabilmente i tempi sono diversi e sono cambiati. Cioè, mentre prima bastava fare appunto i Blues Brothers che scappano, ora l'investimento sono di grosse case videoludiche. Vedi, adesso non è direttamente tratto dal film, ma in realtà sappiamo tutti che è tratto dal film. Il gioco di cui parlavi prima, che è sui Guardiani della Galassia, è comunque gigantesco, immagino. Sì, ed è bellissimo. Se sei una casa indie, magari non è che ti vai a schiantare contro un film e dici traggo l'idea dal film e ci faccio il videogioco, dici mi faccio il mio progetto indie e basta. E lo stesso probabilmente è anche dal punto di vista di cinematografia. Se hai tanti soldi, decidi di fare un giga progetto come quello di Arcane. Se hai pochi soldi, perché andarsi a mettere le mani su qualche videogioco quando puoi fare altro? Ma per me dipende anche dalla visione, cioè se hai davvero un'idea che si adatta bene a qua un franchise e trovi dall'altra parte persone che riescono a vedere quell'idea, a capirla, esce fuori John Wick X, che non è un giocone, io neanche l'ho finito tra l'altro, però è un gioco indie molto piccolo che però secondo me si incastra molto bene con John Wick perché non è. Cioè, tu dici John Wick e ti aspetti uno sparatutto in prima persona, magari, no? Cioè, ti aspetti una cosa molto complicata, cioè molto diretta, molto graficamente bella, così. Invece John Wick X è puro, è uno strategico a turni, cioè, proprio ultra tattico. Cioè, è una cosa che ti fa un po', come si dice, che si incastra bene perché si incastra con come pensa John Wick, cioè come il film ti fa percepire la pianificazione di John Wick in combattimento, no? Cioè, non lo so, cioè è per dire, magari se hai un'idea piccola, contenuta, che si concentra su un elemento di un videogioco o un elemento di un film, riesci a fare un progetto piccolo. Per me il problema è trovare questo piccolo scopo, cioè non so come dire, cioè è ridurre all'osso, non lo so. E far evaporare la zuppa e lasciare il fondo? Non so, cioè. Niente. Ormai non parla più Ormai. direttamente Iago. È diventato Miyagi. Le metafore ormai non ce la faccio più a fare. Nessuna pietà. No mercy. Cazzo, Karate Kid dovrebbero rifarlo un gioco ora che ci penso. Tipo su Cobra Kai. Chissà se l'hanno fatto ultimamente. Cobra Kai. Dobbiamo proporre l'idea. Ah no, è vero, l'hanno fatto! Cazzo, è pure uscito! Di recente! Ed è bello! Ragazzi, dico tutto, i giochi sono belli. Cioè, vedi? Funziona. Scusate, sì. Metterò il link al gioco di Cobra Kai in Sì, è descrizione. il link affiliato, ovviamente. Esatto. Qualcuno lo compra da soldi a noi. E quindi non lo so. Secondo me, boh, dipende, perché poi appunto se sei un gioco piccolo hai il vantaggio che ti dà quella visibilità, no? Sì, Cioè hai solo che devi il... comprare il... cioè comunque un po' te la rischi perché tu compri i diritti o ti accordi insomma, con chi possiede i diritti, però a quel punto lui ci mette la mano. Non lo so, cioè, diventa una cosa molto più complicata rispetto probabilmente a come era un tempo, nel senso che ci sono molti più soldi in ballo in questo momento per fare qualsiasi cosa, anche dico per fare un film tratto da un videogioco. Devi andare comunque a chiamare il signor Microsoft e gli dici: guarda, io voglio fare un videogioco su Halo. E non è detto che poi loro ti dicano: sì, hai carta bianca, fai il cazzo che ti pare. Capito? Sì, cioè c'è molta più attenzione, no? Per queste cose. Esatto. D'altra Dici, parte poi gli IP escono stanno cose diventando migliori. proprio... No, scusa, finisci pure. No, è che quello che dico è che se vuoi fare un indie è più semplice, probabilmente è più semplice se tu hai un'idea molto bella, anche ispirata a un film, comunque renderla tua, rispetto a dire uso il franchise che già esiste. Però, d'altra parte, questa cosa poi crea diciamo, ha il suo lato positivo, perché appunto Guardiana della Galassia mi dici che è un bel videogioco, io so solo che la colonna sonora è spettacolare, però, d'altra parte, per esempio, dal punto di vista cinematografico, Sonic a me è piaciuto molto. Comunque è un bel progetto. E secondo me, appunto, vale il fatto che sia tratto da un videogioco. È un progetto fatto bene. Io, appunto, non vedo l'ora di vedere il 2. Arcane anche, per dire. Cioè, comunque, il fatto che la posta in gioco sia più alta rende anche il risultato migliore. Può rendere anche il risultato migliore. In realtà hai fatto uno strano, come dire, sì, concordo assolutamente con quello che hai detto e mi faceva strano pensare come effettivamente in realtà se un po' indietro nei ricordi e negli anni una delle saghe appunto che è diventata poi più famosa in realtà è cominciata un po' così, perché se ricordiamo che cos'era? Inizio anni 2010 con la CD Projekt Red che ha preso questa serie di romanzi un po' sconosciuta e da piccola casa di sviluppo ha iniziato a creare fuori questa serie che ha poi ha ricevuto così tanto successo, appunto quella di The Witcher. Mi faceva strano pensare appunto come fossero cambiate le cose. Sì. Poi, da un punto di vista anche dal lato opposto, ci sono grandissimi, cioè ci sono pochi in realtà, ho detto una cazzata, grandissimi è un po' fuori. Ci sono esempi di film tratti da videogiochi che hanno lanciato sia franchise sia attori. Per esempio, Tomb Raider, comunque è il primo progetto grosso di Angelina Jolie a livello internazionale Vero, e vero. ha comunque avuto un discreto successo e parliamo del 2001, quindi insomma. Ci sono anche questi esempi, è probabilmente più raro perché ci sono meno casi. Beh, adesso un po' come è stato per la serie di The Witcher con le due attrici per Ciri e Yennefer, probabilmente Ah, sarà che sì, beh, certo. lì ormai come si prende tutto un po' più seriamente qua. È più curato e non è una cosa brutta, anzi, esce. meno roba magari, però è più potrebbe, cioè rischia di essere interessante, rischia di non essere Street Fighter, per quanto abbia sbancato al botteghino. Vero, innegabile. Prendendo anche ad esempio, perché alla fine si sapeva, saremmo finiti lì, visto che è stato uno degli esempi più grandi di tutto il fenomeno, quello di The Witcher, che ci sta, si lega bene a questo punto. Mi ha parlato tanto di film slash serie TV legate al mondo dei videogiochi, come dire, in una direzione e nell'altra. Però appunto, come dicevo, accennavo all'inizio, in pre-puntata, stavo anche pensando se c'erano anche altri campi, oltre semplicemente quelli della cinematografia, così dire, che si potevano citare sotto, come dire, questi vari esempi. Perché io mi ricordavo di tutte quelle serie un po' più grandi, tipo Halo, Assassin's Creed, World of Warcraft, che hanno generato anche tipo delle serie di romanzi basati sulla lore che hanno avuto un discreto successo. Beh, generalmente, ora, il campo della letteratura non penso dire una castroneria dicendo che è abbastanza competitivo. Quindi, sì, era questo, diciamo, per dire. Cioè, non è solo. Mi chiedevo se aveste per caso storie, esempi, cose così, anche riguardo cose al di fuori del cinema e della TV. In che senso? Tipo fumetti? Sì, è quello anche interessante, perché a me venivano in mente i romanzi, che da quanto ne so, ne sono usciti parecchi, soprattutto per esempio quelli di Halo, ha raccontato Jacopo più volte, non mi ricordo se l'aveva già accennato anche sul podcast, ma la saga di romanzi su Halo è diventato parte integrante proprio della lore stessa, no? Sono Purtroppo, considerati. purtroppo sì. Anche quell'aspetto lì, vedi? Purtroppo sì, perché tu dici uno effettivamente deve farsi una laurea, deve leggersi. No, beh, c'è una conversazione Halo 4 che se non hai letto i libri sembra, sai, l'architetto in Matrix Revolutions che fa quel tappone di Cioè, è scritto a 4 ore? caso. Sì, cioè, no, personaggi che non conosci, che dicono cose riguardo dei litigi che non conosci, che hanno avuto tra di loro nei libri o nei cosi, nei terminali. Cioè, è bello per me che li ho letti, che so qualcosa, che magari ho seguito un po' la lore dietro le quinte e così, anche perché alcuni libri sono davvero belli, cioè indipendentemente Halo o non Halo, cioè ci sono diciamo due trilogie che sono considerate proprio bei libri, cioè una la sto leggendo ora ed effettivamente è proprio, cioè mi ricorda un po' Asimov, cioè un po' la Fondazione, non c'è, cioè ovviamente non è la stessa lega, però diciamo è fatto abbastanza bene. E invece l'altro che è un po' più di spionaggio, eccetera, però è un po' difficile integrare cose di libri che magari sono considerati quasi opzionali nei giochi. Dovrebbe essere solo il contrario, no? Cioè, dovrebbe essere un personaggio che viene approfondito, un dettaglio che viene approfondito, una backstory che viene riempita. Cioè, tutte quelle cose che non sono interessanti da fare con il gameplay, mettiamola così, che sarebbero solo testi trovati in giro o audiolog di merda. Sto guardando te, Halo Infinite. So che addirittura forse prima che uscisse Mass Effect c'era un romanzo su Mass Effect che lo presentava bene, molto bene, ma su questo sono più indeciso. Cioè, non so quanto può essere controproducente. Cioè, tu dici sta per uscire un gioco, prima che esce il gioco faccio una specie di prologo o di introduzione alla lore, non so come dirlo, cioè. È tornato in mente anche il fumetto, quel piccolo fumetto che però legava praticamente la storia tra Portal 1 e Portal 2, che era quasi necessario anche lì, perché uno un po' si sorprendeva nel ritrovarsi, diciamo, in Portal 2 nella stessa situazione in cui ci si trovava al primo Portal, visto che il finale era proprio essere riusciti a fuggire. Vabbè, faccio un po' di spoiler, ma è anche abbastanza vecchiotto il gioco. E ci sta anche, come dire, anche lì l'ho scoperto perché appunto all'inizio cerco di capire. Aspetta, ma spiegami un attimo, come sono finito di nuovo qui? Perché sono di nuovo a fare i test? E è stato carino trovarlo, è corto, sono tipo, credo, una cosa come una decina di pagine, forse anche meno. Però è interessante, carino, ti dà anche un po' più di. Ti espande leggermente la Ci sta, ci piccola sta. lore. E quello ci sta, nel senso, è una cosa. Come dire, è una cosuccia che ti leggi in 20 minuti e che ti dà alcune risposte che sono interessanti. Secondo me ci può stare che, appunto, per evitare di, non so, riempire. Ecco lì, secondo me, la Valve è veramente brava. Evita di appesantire con altre cose che sono sì necessarie, ma non strettamente videoludiche. Perché questa cosa qua, tipo fare una cutscene introduttiva al gioco, ci poteva stare, ma erano solo costi di produzione in più, era tanta roba in più che poi alla fine poteva benissimo non starci. E chi era interessato recuperava questo fumetto, che probabilmente avranno fatto con molta semplicità, molto rapidamente, risparmiando su tempi di produzione. E doveva fare quel che faceva, quel che faceva, quel che doveva fare. E secondo me delle cose, delle aggiunte così ci stanno bene in tanti casi. Salla, non hai voglia di leggere un libro su Gears of War? Assolutamente no, Su però Gears of ho War. un'ultima roba da condividere con voi, visto che siamo nel vostro podcast di videogiochi, faccio un po' la marchetta, no? Ai videogiochi in realtà, non ai Videogiochi e videogiochi. game design. E secondo me la cosa più interessante da un punto di vista cinematografico non sono i videogiochi ispirati direttamente ai, no, ai film ispirati direttamente ai videogiochi, ma i film ispirati, tra virgolette, indirettamente ai videogiochi, ovvero quelli che rendono omaggio o comunque che parlano dei videogiochi. E secondo me sono Bella. anche quelli che hanno avuto più successo. Non so se esiste un esempio corrispettivo nei videogiochi, però mi riferisco anche solo a tipo Tron. Per dirne una di vecchi, per non andare a parlare sempre di Ready Player One, però tipo Jumanji, ma anche solo tipo Ralph Spaccatutto, queste robe qua, che parlano di videogiochi, ma non citano un videogioco direttamente, e quelli secondo me sono ancora più originali e interessanti di film su Bloodborne, o film su, così, trigger un po' Marco, un film su, vabbè, facciamo film reali, un film su Doom. Tipo. C'è che esiste il film. No, infatti, per triggerare un po' corrispettivo di E no, videogiochi, videogiochi che effettivamente. parlano di cinematografia o di fotografia o di boh, storia. Non ho capito, Sarla. Per Tu stai favore. forse considerando l'aspetto un po' più meta della Meta, cosa? esatto. Esatto, cioè Esiste un che. corrispettivo tipo una celebrazione del film. C'è un videogioco famoso in cui si celebra il film o dirigere un film o filmografia in generale, perché invece c'è l'opposto dal punto di vista di film. Esiste l'esempio di film che celebra il mondo pop di videogiochi o i videogiochi nello Happy guy. specifico. Sì, Free Guy, ma appunto, ma ce ne sono tantissimi molto Sì. interessanti, tra cui per esempio Ralph Spaccatutto, che è una cazzata, però è molto carino, è molto Vero. interessante, molto originale, ma anche solo Jumanji parla di un gioco da tavolo, però il concetto è lo stesso. Ma Mythic Quest, la prima Mythic stagione, Quest, Marco, non esatto, lo sì. spero. La prima stagione, ok, sono d'accordo, la seconda La no. seconda no, perché Marco è stronzo, però va bene. Cioè, tu dici se esiste un film che celebra. No, se esiste un Un videogioco che celebra un videogioco che po'. celebra l'arte di fare film. Sì. Si chiama The Movies, una cosa del genere, o The Movie, mi pare. Aspetta. Era un gioco di simulazione di Lionhead, lo studio di Peter Molyneux, quello che ha fatto Black and White, Fable, e che ha detto una marea di cazzate, specialmente ultimamente sugli NFT. Praticamente era un gioco dove tu creavi dei film, e tra l'altro A quello Era un tipo. No, po'. finisci. Era molto potente, cioè al tempo quando è uscito era uno dei pochi giochi che dava degli strumenti veramente potenti di diciamo sceneggiatura, editing, creazione di set, cioè era tutto fatto in maniera giocosa, però era un po' come The Sims, quindi era un po' era parecchio, diciamo, customizzabile, cioè ovviamente era molto limitato, eccetera, però per l'epoca, insomma, era abbastanza fico, cioè come gioco. E celebrava molto l'arte di fare film perché, appunto, essendo strutturato più come un gioco e non come un tool appunto, di editing, era più giocoso. C'erano i producer, gli studios, il marketing, le star, tutte queste cose qui. Diciamo che come commento un po' più sottile. Cioè, allora, questo era proprio apertamente, cioè celebrava apertamente i film. Per me anche Eli Noir celebra i film noir, celebra quell'era di film, specialmente celebra L.A. Confidential, da cui si ispira proprio apertamente, anche come nome, e come tecnologia, cioè il fatto degli attori che recitavano. Tu lo conosci il gioco Salla? Assolutamente no. L.A. Noire. Magari dopo ti, cioè, faccio vedere il link. Nessuno Però era un gioco ascolta. dove gli attori recitavano e le espressioni venivano riportate nel gioco molto bene all'epoca. Cioè, per l'epoca era il gioco più avanzato da quel punto di vista. E difatti i personaggi nel gioco erano tutti presi da attori reali. C'era gente come appunto cosa, John Lovell, quello che fa Denethor, che fa no, si chiama John Lovell, sì, quello che fa anche Sì, quello. Bishop in Esatto, il dottor Fringe, Bishop. Dottor Bishop in Fringe, c'è anche gente tipo quello che sta in tutti i film di J.J. Abrams, che fa Matt Parker in Lost. Cioè, è pieno di attori ultra riconoscibili, cioè proprio ultra facili da trovare in altri film, telefilm. Vabbè, Aaron Sutton, il protagonista, è quello di Mad Men, fatto anche altre Facevano un robe. po' quello che si fa già, cioè che adesso si fa più spesso di usare attori veri per Con tecnologia molto all'avanguardia. Tra l'altro, la cosa bella è che ora siamo arrivati a un punto di tecnologia per cui tu puoi avere personaggi nel gioco che non assomigliano agli attori e comunque riuscire ad avere, non so, la performance sulla faccia. Tipo in The Last of Us, cioè Ellie, vabbè, un po' assomiglia all'attrice, però tipo Joel non assomiglia per niente a coso. Sì, no, non... ecco adesso sto prendendo, mi sta venendo in Ciao, mente Troy Baker. Roy Baker, bravissimo, mi sta venendo in mente. Però diciamo, già in L.A. Noire, anche cioè, col fatto che la tecnologia era limitata ma comunque all'avanguardia, il fatto che gli assomigliavano così rendeva il gioco molto più simile a un film noir a cui si ispirava, mettiamo così. No, è bello il rapporto che c'è, cioè che comunque c'è uno scambio di idee e tecnologie tra i due media. E tipo adesso cioè esiste un premio alla regia nei videogiochi che già di Vero. per sé è sintomo di usiamo le conoscenze di un altro media per metterli nel nostro. E d'altra parte c'è un sacco di film che utilizzano. Vabbè, stunt ok, però anche solo spunti da quello che è l'universo dei videogiochi. È un buon rapporto. Sì, diciamo che il fatto della regia è un po' un problema, secondo me, perché è la parte più problematica di un film. Qui entriamo un po' in un discorso filosofico complicato, però. Cioè, pensare che sia il regista a fare un film è problematico per i videogiochi, nel senso che, ovviamente, quando si parla di videogiochi piccoli e film piccoli, è possibile. Tipo, Nomadland. Posso crederci che c'era solo lei, cioè nel senso che Sì, c'era solo. c'erano due persone che erano Esatto, tranquille. c'era lei, l'attrice, forse un cameraman. Cioè, il direttore della fotografia, lei e gli attori. Esatto, cioè posso credere che erano in due praticamente a dirigere il film creativamente e magari anche a collaborare con gli attori e le attrici, perché Sì, insomma. E poi mi dicevi che è stata addirittura lei a montarlo su Mac, robe lei assurde. cioè lei e lui, cioè lei e il direttore della fotografia hanno fatto tutto il lavoro che avrebbe fatto una troupe di 50.000 montatori, cioè non Esatto. tutto, però la maggior parte del lavoro. Quindi diciamo, se il progetto è piccolo, si presta ad essere piccolo, ok. Ma per questi film e questi giochi molto grandi, cioè è veramente un lavoro di squadra, è veramente un lavoro che richiede tutti e tu, cioè davvero a volte le idee vengono da, dico per i film, magari viene dall'elettricista un'idea, cioè posso dire, cioè è davvero un lavoro non solamente di autorismo, non so come si dice. Ma di lavoro di squadra, cioè di collaborazione, eccetera, che abbiamo detto più volte in questo podcast, penso ormai ci sarà una di due puntate che parliamo di sta roba. Questo è un rischio perché può diluire un'idea o una forza, perché se hai un team allineato possono lavorare in parallelo con un obiettivo comune. Quindi, tipo nel caso di L.A. Noire, è un gioco che ha avuto dei problemi perché tipo le sequenze d'azione fanno cagare, addirittura il gioco lo sai e ti chiede se vuoi skipparle. Ma ha avuto anche, diciamo, la fortuna di riuscire bene dal lato di performance, di tecnologia, eccetera. Nel caso, per esempio, di Last of Us, hai un team dedicatissimo di gente che sa esattamente dove vuole andare a parare il gioco e quindi dedica anima e corpo ad arrivarci. Cioè, è un po' sbagliato secondo me parlare di regia di un videogioco o regia di un film e attribuire tutto solamente ad una persona quando il film in realtà è un lavoro di più persone. E questo, cioè, genera anche problemi tipo di non riconoscere tipo dei diritti sul lavoro. C'erano problemi adesso in America su gli orari delle troupe, degli assistenti registi, cose così. Gente che appunto non viene premiata agli Oscar, non viene premiata ai Game Awards, che però, cioè, fa a volte letteralmente fa il film, è la gente che sta sul set che fa le cose, o nel caso di videogiochi la gente che tocca la tastiera e fa crea delle cose. Quindi d'altra parte però capisco che per come siamo fatti noi, proprio il nostro cervello, è giusto semplificare e arrivare a una persona, no? Cioè è giusto anche per dare quest'idea di celebrità, no? Cioè, perché alla fine è quello, no? Che ti rende più facile approcciarti a un film, è avere questa connessione con una, due, tre persone, il regista, lo sceneggiatore, il direttore di fotografia, questi qui, per avere l'ingresso e dire ok, Tarantino, punti dritto a Tarantino e ai piedi. Vale anche, esatto, ai piedi, vale anche nei due sensi, però, cioè, non è che poi se devi sparare merda dici tutta la troupe di Tarantino è una È merda, una dici mezza. Tarantino è una merda, sì, quindi vale esatto. anche nel, cioè, è una Sì, questione di è vero. responsabilità anche, però sì, ho capito il punto, sì, È è un po' che di. sono cose enormi, sì. Cioè, ci vuole un po' di bilanciamento, nel senso che è giusto sia dare il premio per la regia a Neil Druckmann, sia lui che giustamente ringrazia magari il team, no? Cioè, nel senso. Esatto. È Vabbè, sicuramente. ho fatto andare fuori tema tutto. No, mi hai triggerato, Salla. Questo è colpa tua. No, è un discorso che mi sta particolarmente a cuore, anche perché ultimamente escono fuori parecchie notizie di gente che, tipo Ken Levine, che è completamente folle, che non sa che cazzo dice, che cazzo vuole. Quindi, insomma, è un anno a doppio taglio. Però sì. È figo che finalmente magari si comincia un po' più a sentire di queste cose al di fuori, perché magari io o Marco così, che siamo più, diciamo, dentro nel giro di notizie, eccetera, sappiamo queste cose, però è bello che sta un po' più uscendo al di fuori della bolla, mettiamola così, no? E quindi Beh, stavo... fino a un po'. Vale un po' per tutti gli ambiti. Comunque, sì. Cioè, immagino sia così anche per i videogiochi. Ma Ma quindi quindi anche quello che in. stiamo cercando, tra virgolette, di fare anche noi con un po' di divulgazione, tra virgolette, molte virgolette, con questo podcast, per cui... Sì, boh. Noi siamo forse ancora molto, come dire, il nostro pubblico è più, forse già qualcuno che non è Ma il così nostro pubblico distante. non esiste, il nostro No. pubblico, metà del nostro pubblico è Non il qui, nostro pubblico, ho sbagliato, il nostro target metà del effettivamente. nostro pubblico è qui e non è neanche Salla, è Anna. l'altra, esatto, l'altra metà è nella stanza in cui sono. Ci sta. E l'altro sono Grande io. fan, ecco. E niente, no, questo volevo dire in realtà. Niente, nient'altro. Ho Triggerato. scoperto. Grado. Quest'anno ho scoperto che gli Oscar sono stati meno seguiti dei Game Awards, secondo alcune metriche. Non ci credo molto, però so che quest'anno gli Oscar sono stati pochissimo seguiti, veramente poco. Quindi anche lì un po' è colpa degli Oscar, nel senso che non è cioè non è una cosa che va a favore dei Game Awards. Il vantaggio dei Game Awards, secondo me, che è anche uno svantaggio, è che puntano tanto sul futuro. Cioè, la maggior parte delle persone, forse incluso anche me, si collegano per vedere cosa ci sarà di nuovo nel prossimo anno, insomma, cosa verrà svelato in arrivo. E niente. Di cosa stiamo parlando prima che Salla Ti che sal triggerasse. triggerasse? E quello che avete ascoltato? Ah no. No, forse di film, di libri, di No, cose. stavo dicendo che c'è un bel rapporto tra i due media, nel senso che molte scritture, modi di scrivere, modi di dirigere sono stati convertiti poi a quello che è il video. Cioè, ora i videogiochi hanno un premio, insomma, danno speso a quella che è la regia. E nello stesso modo molte idee dei videogiochi sono poi passati e narrati nei film che celebrano videogiochi, cultura pop in generale, eccetera, eccetera. Ed è un buon rapporto che va in entrambe le direzioni. Sì, tipo anche, ma anche di tecnologia, cioè avanzamento di tecnologia tipo Mandalorian. Mandalorian non sarebbe possibile senza i videogiochi. O Hai tutti... detto Book of Boba Fett. Book of Boba Fett, scusa, hai ragione. The Book of Boba Fett non sarebbe possibile senza i videogiochi. Tra l'altro, non so, cioè, non so cosa è nato prima. Come concetto, se è nato prima come concetto lo spin-off, no, forse lo spin-off dei film, sì. Forse Non so. Star Wars ha un po' iniziato questo trend di spin-off e tie-in, eccetera. Potrebbe essere anche semplicemente venuto fuori da, per esempio, i fumetti. Spin-off mi sa molto quasi più No, di. scusa, intendevo uno spin-off in quel senso. Sì, hai ragione dei fumetti, però dico. I tie-in, cioè che dal film nascono Ah. storie che non c'entrano un Ah, cazzo con i ok. videogiochi. Mi sa che Star Wars più o meno l'ha fatto nascere. Tra l'altro con tantissimi giochi belli. Sì, Star Wars ha veramente tanti videogiochi belli, anche molto vecchi, che sono usciti da lì. Che Madonna, ho tipo giocato Republic anch'io, quindi penso a Command. te. Ah sì, che quale gioco? Allora, io ho giocato un gioco vecchissimo in cui era tipo un gioco ambientato nello spazio, con le navicelle, spara, spara, scoso, coso. Poi ho giocato agli strategici. Oddio, qual erano strategi? Gli Come quali erano gli strategici? strategi di Star Wars, come si chiamavano? Oddio, mi stai uccidendo. Vabbè. Vabbè, Non niente, sto venendo accidenti. anche a me. Star Wars Galaxies? No, Star Wars... No, no, no, io dico The Old Republic, Knights of the Old Republic, quelli lì. RPG, che figata, sì. RPG, sì. E Sì, poi bello. io ho giocato anche ai Battlefront 1 e 2. E ho giocato anche adesso a. Ho giocato a Star Wars Il potere della forza, quello in cui spostavi le È navicelle. bello, sì. Tutta E anche amaro. all'ultimo che è uscito adesso, cioè è uscito Fallen 2 anni fa, Order. quindi è uscito, esatto. Con l'ordine, tra l'altro, uscirà a sequel a breve, probabilmente. Quindi in realtà sono un videogiocatore di giochi di Star Wars. Hai visto? Alla fine eri un videogiocatore, Saula. Non Sei un lo vero sapevo. gamer. Vedi che Star Wars. Forse è questo il segreto che possiamo capire anche dalla Marvel. Cioè, il segreto non è adattare i film, ma adattare l'universo. Cioè prendere storie dallo stesso universo e farci qualcos'altro. Perché adesso ripensandoci, gli unici giochi di merda. Non è vero. Molti dei giochi di merda di Star Wars sono quelli dei film, in realtà. A parte qualche eccezione. Però tipo, cioè, mi ricordo che il gioco d'attacco dei cloni, il gioco di ritorno, cioè erano tutti giochi brutti, invece tipo Jedi Academy, The Old Republic, Republic Command, oddio quanto cazzo era bello Ma Republic Command. anche il Signore degli Anelli è stato uguale. Beh Ah, no, il anche se il 3 è molto figo il 3 è videogioco, figo. però i giochi più belli sono quello tattico e quelli dopo che hanno copiato È Assassin's Creed, sì. morto Retheoden, piangiamo. Esatto. E quindi sì, forse questo è il segreto, forse abbiamo risolto il problema in questa puntata. Ma secondo me poi magari è una cazzata, ma perché? Perché ovviamente la narrativa è importante, essendoci molto più materiale, è più semplice scrivere. È ovvio che nel 93 vai a prendere un Super Mario, non è così semplice farci un film su una storia del genere. Ah, Sallo, vuoi portarlo a chiusura chiudendo il cerchio? Peccato, peccato Che perché. tentazione. Peccato perché purtroppo manca ancora una parte. Se Marco non vuole aggiungere nulla. Ma direi che non saprei che altro aggiungere a questo punto. Oh no, ho fallito. Eh? Ho fallito. No, non hai fallito, hai solo, diciamo, anticipato il prossimo momento. Purtroppo il mio cellulare non sta funzionando. Però aspetta che forse ho trovato il momento. Eccolo qui. Eccolo qui. Perfetto. Siamo al momento Kojima. Come non parlare di Kojima e del cinema? Kojima voleva fare il regista, ma purtroppo per Salla ha deciso di fare il gioco. No, per fortuna invece, perché Salla così non ha giocato e apposta. Non è esatto, non ho dovuto guardarlo o leggerlo. Allora, secondo me dovresti guardarti tutti i filmati di Death Stranding dove c'è Mads Mikkelsen. Ne ho visti molti comunque. Perché io Death Stranding, allora, io non, vi, non faccio allora, altarino di Salla. Salla è una persona pigra, cioè io, se parla in terza persona di sé. No, io non gioco molto, ma guardo un sacco di persone che giocano. L'ho detto. Oh no, sei come un nostro certo amico che solamente ha come vocali nel nome. No, quindi in realtà è Death Stranding l'ho, cioè non l'ho visto tutto, però il film è di Death Stranding, non l'ho visto tutto, ma buona parte del film l'ho visto. Vabbè, perché in realtà, cioè, per me Kojima ha preso le parti peggiori e le parti migliori dei film. Cioè, ha preso sia le parti di storytelling visivo e appunto metterti veramente all'interno di una storia con la telecamera, con personaggi che magari parlano come parlerebbero in quel mondo, cioè che non ti fanno lo spiegone. Poi però ci sono anche altri personaggi in altri momenti che ti fanno un pippone di 4 ore di esposizione invece di farti giocare, invece di farti vedere. Cioè, ha dei momenti bellissimi di regia come in Ground Zeroes e all'inizio di Death Stranding, e poi si perde in questi veramente pippozzi incredibili. Quindi, cioè, ne abbiamo parlato tante volte di Kojima e del cinema in questo podcast, quindi non voglio ripetere all'infinito cose già dette, però una persona che cita il film di Sacco e Vanzetti, addirittura mettendoci dentro la colonna sonora in un inizio di un gioco, parla di tutt'altro in realtà, che inizio di Ground Zeroes. Ci tiene, cioè Kojima ci tiene ai film, ci tiene molto ai film. Ai care a lot, come direbbe qualcuno. Poi, come dicevamo Quindi. prima, bisognerà vedere anche il film di Metal Gear, no? Come dovrà uscire a questo punto. Esatto. Hanno parlato insieme di questa cosa, sia lui che. Cioè, lui è il regista. Quindi io ho buone speranze, ma non si sa mai per queste cose. Ma vedremo, non Vedremo, so. vedremo, che dire, adesso aggiungeremo una scena quando uscirà, magari ne riparleremo, aggiungiamo, Un la post-mortem. montiamo a questo episodio. Che dire, a questo punto penso che mi hanno detto tutto, io per l'ultima parte, scusate, ma mi sono forse anche un po' perso ad ascoltare i vostri discorsi, non sapevo che aggiungere, vi sembravate molto più preparati di me su quest'ultima parte. E No, che dire, detto tranquillo. questo, ringraziamo tutti quelli che ci hanno ascoltato anche questa volta. Ringraziamo il nostro ospite, assolutamente. Ma grazie a voi. E come tutte le volte, io ero Marco. Io sono ancora Jacopo. Proprio così. Ah no, cosa devo dire? Anche stavolta, Sal, hai fatto Il nostro. miau. Miau, proprio così. Il nostro co ospite è incorreggibile. Che altro dire se non continuate a giocare e a guardare Appunto. qualche film se vi capita di tanto in tanto. Guardate Super Mario, Sì. due occhi. Mario, Mario, Luigi, Luigi. Luigi No, Mario. Mario, Mario, Luigi, Mario. Cosa stai dicendo? Esatto. E Ciao, ciao. la dinamica del suono, ciao. Ciao.